Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi cominciamo con un classico, anzi con un doppio classico, Il viaggio sentimentale di Yorick lungo la Francia e l'Italia di Laurence Stern, pubblicato da Bompiani, 298 pagine, 15 euro, e la traduzione di Ugo Foscolo. Ecco perché parlo di doppio classico. L'edizione che vi presento ha molte illustrazioni, tra cui quelle di Filippo De Pisis. Il grande pittore infatti dedicò alcune sue opere a illustrare questo libro. L'autore visse tra il 1713 e il 1768, era un pastore anglicano ed è autore anche di uno dei più celebri cicli della letteratura inglese, La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo. Nel 1762 e nel 1765 Stern viene per due volte in Italia e da questi suoi viaggi nasce il libro che intitola a un personaggio Yorick, appunto shakespeariano. Lo scopo del libro ce lo presenta lo stesso Foscolo nell'introduzione che egli per la verità firmò Didimo Chierico. Qui Foscolo spiega che, assumendo il nome di Yorick, Stern volle con parecchi scritti e singolarmente in questo libricciuolo insegnarci a conoscere gli altri in noi stessi e a sospirare ad un tempo e a sorridere meno orgogliosamente sulle debolezze del prossimo. L'autore, aggiunge Foscolo, era d'animo libero e di spirito bizzarro ed argutissimo ingegno, segnatamente contro la vanità dei potenti, l'ipocrisia degli ecclesiastici e la servilità magistrale degli uomini letterati. Come vedete, molti spunti di attualità. Ma sentiamo su questo libro il curatore, che è Giovanni Puglisi, il quale è rettore dell'Università Yulma a Milano e lui stesso docente di letteratura. Buongiorno a Gianni Puglisi. Buongiorno a lei. Professor Puglisi, in fondo questo libro di Stern si inserisce in un'ampia produzione di viaggi, di libri su viaggi del Settecento. Che cosa ha di particolare questo viaggio sentimentale di Yorick? Beh, è la scrittura di un'esperienza che, come un poco in quegli anni, coincide con un percorso personale, una specie di romanzo di formazione ante litteram. E quindi è una storia, una scrittura dove il viaggio e la narrazione del viaggio sono in qualche modo la confessione dell'autore. Romanzo di formazione fatto però in un'età già matura per quell'epoca. Beh sì, infatti ho detto una specie di romanzo di formazione. È un romanzo di formazione nella misura in cui è qualcosa che tende a costruire una personalità all'interno di un percorso di esperienza di vita, ricostruendone sentimenti, passaggi ed esperienze di vita stessa. E allora come leggerlo oggi questo libro? Beh, come tutti questi libri di quel tempo, leggerlo alla riscoperta dei luoghi che in qualche modo descrive, ma nello stesso tempo leggerlo come il gusto e la ricerca, attraverso la curiosità della novità e dell'esperienza di vita. Credo che quello che manchi nel nostro tempo sia da un lato la curiosità e dall'altro la ricerca di queste esperienze di vita che si coniugano con il vagare. Oggi la vita, il viaggio ha perso la sua natura di percorso, è diventato un tragitto virtuale da un luogo all'altro. Beh, questo viaggio sentimentale di Yorick ci insegna che il viaggio è tutto, è l'inizio, il percorso e l'arrivo. Secondo lei nel libro di Stern c'è più illuminismo o più romanticismo? Io credo che ci sia, da un lato ci sia una componente illuministica perché è un percorso razionalmente e intelligentemente programmato, c'è molto romanticismo perché è la ricerca dell'anima. E in fondo anche il titolo, il richiamo a questo matto shakespeariano di Yorick, confermerebbe questa interpretazione. Esattamente, esattamente. Cioè il tratto della follia, la follia che si mescola alla ragione, dove non c'è mai la separazione, ma io questo credo che sia la caratteristica degli uomini fuori classe, non c'è un uomo fuori classe che sia la saggezza personificata, come non c'è un matto che sia del tutto matto. Io uso dire di una persona intelligente e in qualche modo interessante, è pazzo, ma il pazzo mi richiama l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. La pazzia è una vena che in qualche modo dà senso alla vita e fa scoprire l'altra faccia della realtà, una faccia che in qualche modo tante volte dà senso alla quotidianità e alla banalità. E qui di matti abbiamo anche Foscolo. Foscolo è l'icona della follia di quegli anni, una follia intelligente, una follia che in qualche modo metteva insieme l'animo del guerriero e l'animo del poeta. Foscolo è la rappresentazione più forte di un vissuto sentimentale che si esprime attraverso la tensione verso l'intelligenza e i lumi della ragione. Foscolo è un caso interessante perché è il primo immigrato che ha trasformato la sua lingua d'origine nella nuova lingua di arrivo. E infatti si è trovato con questo viaggiatore come Stern. Esattamente, esattamente. Bene, grazie a Giovanni Puglisi, curatore del viaggio sentimentale di Yorick. Buona grazie domenica. A lei. La letteratura di viaggio è un genere molto frequentato dagli scrittori inglesi. Lo testimonia per esempio questa antologia che vi propongo, Invito al viaggio, curata da Renata Discacciati e pubblicata da Archinto, 164 pagine, 12 euro. Sono soprattutto inglesi appunto gli autori rappresentati in questo libro, non esclusivamente, ma ripeto, la grandissima parte di queste pagine viene tratta da libri inglesi a partire da uno degli scrittori più famosi, cioè Dickens. E ci sono tra questi scrittori che si esercitano appunto in pagine di viaggio molte donne. Donne inglesi che spesso vissero in luoghi assolutamente impervi per seguire i mariti che erano ufficiali o rappresentanti del governo britannico in quelle plaghe lontanissime e che trassero da questa occasione dei libri sui luoghi che avevano visitato, sui luoghi dove vivevano, libri che sono rimasti come delle testimonianze importanti non soltanto o non tanto dal punto di vista letterario quanto proprio dal punto di vista della civiltà e della cultura e anche del modo in cui soprattutto gli inglesi guardavano a queste terre nelle quali si trovavano. Addirittura fra le pagine di questa antologia ve ne sono alcune tratte da un libro di una lady residente, una donna cioè di cui non sappiamo nemmeno il nome. Non è sopravvissuta la memoria di questa donna, ma il libro sì, è un libro del 1864 intitolato appunto La donna inglese in India. Un altro grande classico che vi presento è Goethe, di cui Castelvecchi pubblica L'uomo di 50 anni, curato e tradotto da Giovanni San Paolo, 222 pagine, 17,50 euro. Questa è un'opera tra le meno note di Goethe, in realtà fa parte di un titolo famoso, anche se forse tra i meno letti del grande autore tedesco, e cioè Gli anni di viaggio di Wilhelm Meister, del quale viene qui estrapolato assieme ad altri due racconti, Troppo oltre e Chi è il traditore? Se Stern anticipava o apriva il romanticismo, qui siamo in piena epoca romantica. Goethe esamina l'effetto dell'amore su due esistenze di un giovane e di una persona assai più matura di lei, in una trama nella quale il protagonista cerca di superare gli ostacoli legati appunto alla forte differenza di età tra zio e nipote. Sentiamo queste righe di Goethe dalla quale vediamo come il desiderio di apparire più giovani, che viene oggi tanto decantato o criticato sui giornali, non è in fondo una grande novità. Niente è perduto, rispose l'altro. Se solo voi altri signori seriosi non foste tanto rigidi e non dichiaraste subito fatuo chiunque si preoccupi del suo aspetto, se insomma non provaste gusto nel rovinare a voi stessi il piacere di trovarvi in una piacevole compagnia e di piacere voi stessi agli altri. Anche se ciò con cui vi mantenete giovani non è magia, sorrise il maggiore, è comunque un segreto. O perlomeno si tratta di toccasana come quelli spesso magnificati nei giornali, di cui però voi, provandoli, sapete scegliere i migliori. Non so se parli per scherzo o sul serio, rispose l'amico, ma l'hai azzeccata. Fra le tante cose sperimentate da sempre per dare un qualche nutrimento all'esteriorità, che spesso deperisce molto prima dell'interiorità, vi sono mezzi veramente inestimabili. sia semplici sia composti, che mi sono stati resi noti da colleghi d'arte, trasmessi in cambio di denaro sonante o per caso e collaudati da me stesso. A questi ora resto fedele e continuo ad attenermi, senza rinunciare pertanto a mie ulteriori ricerche. Posso confidarti una cosa, senza esagerazione. Porto con me una cassettina da toilette che non apprezzo. Una cassettina di cui metterei volentieri alla prova gli effetti su di te, se solo restassimo insieme per 2 settimane. Dell'opera integrale di Goethe e Wilhelm Meister vi segnalo le ultime edizioni, quelle di Medusa, 462 pagine, 29,50 euro, e quella di Adelphi, 596 pagine, 18 euro. Tutt'altro genere di narrativa è quella di Felipe Néon, che è un autore francese vissuto tra il 1861 e il 1944, di cui esce da Adelphi Romanzi in 3 righe, sono appena 58 pagine, 5,50 euro, ed è tradotto e curato da Matteo Codignola. L'autore, che originariamente era un impiegato modello al Ministero della Guerra francese e che perse poi il posto perché coinvolto nelle indagini su un attentato anarchico, si dedicò poi all'attività letteraria. Fu direttore di un'importante rivista letteraria e scrisse più di 1000 romanzi in 3 righe, appunto. È una definizione letterale. Scriveva questa rubrica per il quotidiano Le Matin, che li pubblicò anonimi intorno agli inizi dello scorso secolo, intorno al 1906. E sono appunto delle fulminanti trame, di cui vi segnalo alcuni esempi. La società degli autori pretende che il curato di Vaux-sur-Seine, intento a organizzare un concerto spirituale, versi i diritti dovuti. Sulla questione si pronuncerà il consiglio della prefettura. A Clichy, un mendicante settantenne, certo Vergniaud, è morto di fame. Nel suo pagliericcio sono stati trovati 2000 franchi, ma non bisogna generalizzare. Arrestato a Saint-Ouen un signore sulla 60ina, certo Gallo, tentava di inoculare ad alcuni soldati il proprio antimilitarismo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di atei e del loro rapporto con la religione e con la politica. Comincio con Franco Morganti, che dimostra un atteggiamento molto rispettoso nei confronti della religione nel suo libro La religione di un ateo, Feuilleton. È pubblicato da Liberti, 124 pagine, 12,90 euro. Franco Morganti ha avuto una vita ricca di esperienze, è un tecnologo, consulente, docente universitario, imprenditore, e non nasconde qui il suo ateismo, ma scrive questo libro anzi per manifestare il rispetto dovuto alla religione, che può dare lo spunto, ricorda lui stesso, per aiutare anche chi non crede che la convinzione religiosa, scrive, può avere un forte contenuto emotivo ed estetico che io sono lungi dal minimizzare. Infatti da essa hanno tratto ispirazione, aggiunge, tanti artisti le cui opere ammiriamo, e lo stesso Morganti cita appunto queste opere. Morganti esamina nel libro famosi episodi delle Sacre Scritture, a partire da quello più famoso di tutti, forse il Paradiso Terrestre, che legge aiutato anche appunto dalle opere d'arte che si sono ispirate a questi episodi. La Chiesa, scrive Morganti, sbaglia quando si ostina a voler dare la patente di razionalità e scientificità a questi racconti, a partire appunto dalla creazione, che invece manterrebbero il loro straordinario fascino proprio per la componente irrazionale e favolosa che hanno. Una componente che tuttavia, aggiunge Morganti, ha avuto il merito di consolidare valori importanti come l'etica e la carità. Sentite per esempio che cosa scrive Morganti a proposito dello sviluppo del filone dell'etica nell'impresa. Per il codice civile, l'impresa privata sarà forse sempre un'organizzazione che tende alla realizzazione del profitto, al valore per l'azionista, ma che non dovrà preoccuparsi degli altri portatori di interessi, i cosiddetti stakeholder, a meno che questa negligenza produca visibili perdite. Per un codice etico non vale solo questa preoccupazione utilitaristica. L'azienda, come diceva Adriano Olivetti, ha anche una funzione sociale. Ma passerà del tempo prima che il codice civile recepisca questo concetto. In questi ultimi 60 anni non ci ha nemmeno provato. In fondo è proprio la religione ad aver inventato il codice etico. Forse non tanto i 10 comandamenti, che necessariamente trattavano di argomenti tipici della convivenza civile, come non ammazzare, non rubare, non desiderare la donna d'altri, quanto il messaggio di Gesù concentrato sulla carità, norma che la legge non arriverà mai a trattare. Mentre c'è qualche speranza per i codici etici di impresa, difficile che qualche codice civile si occupi della carità. E proprio questo può riguardare anche il laico, conclude il suo libro Morganti, notando come appunto l'insegnamento della religione di fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, di donare metà del tuo mantello al povero che ha freddo, è un principio che non fa parte, scrive, di alcuna legislazione, che può derivare solo da una legge morale, da un'ispirazione religiosa. Le origini culturali delle posizioni come quella di Morganti sono facilmente rintracciabili nell'illuminismo e nella tradizione dei liberi pensatori. Una delle scuole principali di questo filone fu certamente quella dei libertini, che non sono soltanto persone dalla sfrenata attività sessuale, ma anche, come scrive l'autore del libro che adesso vi propongo, coloro che hanno un atteggiamento intellettuale deliberatamente critico verso la religione, i suoi principi fondanti, i suoi dogmi, le sue credenze, i suoi culti e il suo credo. Erano queste righe tratte dal libro di Didier Foucault, che è uno studioso francese, si intitola Storia del libertinaggio e dei libertini, è pubblicato da Salerno, 498 pagine, 25 euro, ed è tradotto da Marianna Matullo. Foucault esamina lo sviluppo delle due interpretazioni del libertinismo, non limitandosi al clima illuministico, ma andando molto indietro nel tempo, fino a partire dai clerici vagantes, nei quali possiamo ritrovare le prime tracce di questo pensiero libero, per poi giungere naturalmente all'illuminismo, quando si afferma la ricerca della felicità personale come unica rotta dell'agire umano. Naturalmente sarà la Francia l'epicentro di questa rivoluzione di intellettuale che poi sfocerà in una rivoluzione politica, tanto da aver fatto scrivere nel pieno fervore dell'illuminismo che altrove si è libertini per temperamento, mentre a Parigi lo si è per principio. Queste erano parole citate nel libro del 1750. E naturalmente il libro ricorda e analizza le testimonianze non solo politiche e sociali, intellettuali, ma anche letterarie e pittoriche di questa svolta nell'atteggiamento sociale e intellettuale dell'Occidente. Un libro militante di parte laica è quello di Massimo Teodori, storico e saggista, già deputato del Partito Radicale. Si intitola Contro i clericali, dal divorzio al testamento biologico, la grande sfida dei laici, pubblicato da Longanesi, 260 pagine, 16 euro. Questa è una ricostruzione della storia d'Italia dal punto di vista dello scontro tra laici e cattolici, anzi, come scrive Teodori, tra laici e clericali, uno scontro, aggiunge, che ha condizionato la vita morale, sociale e politica del paese. Clericale, spiega, non vuol dire cattolico, e cattolico non vuol dire clericale, la storia insegna, e qui poi Teodori fa i nomi di tante persone che appunto pur nella loro fede manifestavano un atteggiamento laico e viceversa. Questa storia naturalmente si è evoluta ed è cambiata ed è stata segnata da molti interventi come il divorzio o la legge sull'aborto, che sono anche il segno della secolarizzazione che è avvenuta nella società italiana. Oggi, scrive Teodori, si cerca invece di tornare indietro, i clericali hanno ripreso forza e la politica si manifesta, si mostra meno laica di un tempo. Non c'è soltanto opportunismo per l'autore, ma c'è anche, scrive, il tentativo di dare fondamento a una linea anti-illuminista, anti-moderna e anti-liberale. Da qui nasce, secondo Teodori, l'origine dell'attacco, tanto più preoccupante perché portato contro lo Stato di orientamento liberale che appunto rinuncia alla tradizione culturale dei laici, illustrata da personalità come Guido Calogero, Gennaro Sasso e Gaetano Salvemini. Il 27 gennaio ricorre la giornata della memoria in cui ricordiamo le vittime della Shoah. Vi segnalo in questa occasione il libro Binario 21, un treno per Auschwitz di Stefania Consenti, è pubblicato dalle Paoline, 160 pagine, 13 euro. L'autrice è una giornalista milanese del Giorno e il titolo prende spunto dal binario della stazione centrale di Milano, dal quale partirono nel gennaio del 1944 i treni piombati diretti ad Auschwitz che portavano 605 milanesi, di cui alla liberazione sarebbero sopravvissuti soltanto 20 persone. Ora quel binario è al centro di un'iniziativa della provincia di Milano che organizza dei viaggi per gli studenti diretti appunto al campo di sterminio. Questo libro racconta la cronaca di questi viaggi e degli sforzi per mantenere viva la memoria e far comprendere il significato dell'Olocausto. Viaggi che si sono rivelati utili perché i giovani hanno capito effettivamente di cosa si tratti, di cosa si stia parlando e hanno in parte anche modificato alcune loro precedenti convenzioni. Ricordo in questa occasione che il 26 gennaio alle 12 a Milano avverrà la posa della prima pietra appunto del Memoriale della Shoah di Milano, che sarà realizzato proprio nel binario 21 della stazione centrale per iniziativa delle Ferrovie dello Stato e della fondazione omonima che è presieduta da Ferruccio De Bortoli, il quale nella introduzione al libro sottolinea l'impegno degli studenti che, come scrive, si trasformano in cronisti attenti e partecipi. Uno dei testimoni più significativi della cultura ebraica è sicuramente Aaron Appelfeld, che sfuggì, come ricorderete, Appelfeld è stato anche ospite di questi microfoni, sfuggì all'Olocausto scappando dal campo di concentramento, e di lui esce da Guanda adesso Un'intera vita, 252 pagine, 16 euro, tradotto da Elena Löwenthal. Questo è il romanzo di una ragazzina che segue la madre fugge da casa perché è ebrea, sposata con un non ebreo, convertita lei stessa, ma naturalmente l'origine la condanna, siamo negli anni del nazismo naturalmente, la ragazza non accetta il suo destino anche perché il padre si richiude in se stesso, i compagni di scuola cominciano a darle della Giudea e insomma si mette alla ricerca della madre, finirà lei stessa in un campo, sfuggirà al destino, non ritroverà la madre ma ritroverà se stessa e soprattutto le proprie radici ebraiche. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo testimonianza della passione un po' insolita per i libri nel libro Pipistrelli in biblioteca di Brian Lice, tradotto da Pico Floridi e pubblicato dal Castoro, 13,50 euro. Questo è un invito efficace e colorato per scoprire, scrive il libro, dove trovare le storie più belle tra le file degli scaffali in questo mare di libri. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona settimana.